questo pezzo salutiamo i grandi assenti di questa trasmissione. Eccoci di nuovo qui in diretta dagli studi di Via Paolo Fabbri 110 per questo altro sabato pomeriggio di diretta dai cortei romani. Cortei, come dicevamo prima, contro il summit dei G14 sul welfare. Un corteo che è stato lanciato dal patto di base, dai sindacati di base, COBAS, RDB e SDL, e che partiva da Piazza Esedra intorno alle 3 di questo pomeriggio, e un altro corteo invece organizzato dall'Onda, che partiva invece davanti alla Sapienza in risposta ai pestaggi che ci sono stati da parte delle forze dell'ordine la settimana scorsa, e che poi anche quello confluirà in Piazza Esedra per prendere parte all'altro corteo. Quindi ben due cortei quest'oggi a Roma, oltre 70 pullman previsti e 2 treni speciali sono scesi questa mattina nella capitale. Per quanto riguarda appunto il corteo del patto di base, dalla piattaforma che è uscita nelle assemblee di convocazione del corteo di oggi, le parole chiave principali di indizione del corteo sono il blocco dei licenziamenti, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, gli aumenti consistenti di salari e pensioni, il reddito minimo garantito per chi non ha lavoro, l'aggancio dei salari e pensioni al reale costo della vita e la cassa integrazione almeno l'80% del salario per tutti i lavoratori. Tra pochi minuti ci collegheremo in diretta dalla piazza, dal concentramento, con il nostro inviato Alvin per sentire insomma come sta andando e quali sono i numeri, qual è il clima che si respira nel corteo. Altri 10 secondi di musica e poi andiamo in diretta dal corteo. Sembra quasi un mare. E leggero il mio pensiero volava, ho quasi paura che si parla. cavallo tende il collo verso il prato. Resta come me. Faccio un passo, lui mi vede già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di se stesso. Eccoci, siamo, dovremmo essere in diretta con... Pronto Alvin? Pronto, ok, sì, siamo in diretta con Alvin da Piazza Esedra al concentramento del corteo del patto di base. Ecco Alvin, tu insomma sei arrivato a Roma da Bologna, immagino che ora in piazza starà iniziando a confluire il grosso della gente. Raccontaci un po' insomma quali sono gli umori, com'è la situazione in questo momento a Roma. Ma dunque, noi insomma siamo arrivati da poco da Bologna con i due pullman che appunto che sono partiti con i compagni bolognesi e della provincia, e siamo arrivati adesso proprio qui in Piazza Esedra, Piazza della Repubblica, dove c'è la partenza del corteo. In questo momento, direi, fino a poco fa quando ho guardato non c'era ancora tantissima gente, ma sta arrivando. Si vedeva proprio che da tutte le strade laterali stava arrivando gente. Diciamo che il solito problema degli orari romani, c'era la piazza semivuota ma un sacco di gente che arrivava un po' in ritardo da tutte le vie laterali. E anche a livello di pullman e treni, soprattutto pullman in realtà, dalle altre città c'è arrivata notizia di alcune città da cui i pullman devono ancora arrivare. Per il resto, oltre al concentramento qua, diciamo, del patto di base, del corteo principale, sono arrivati già gli studenti, i ragazzi della Sapienza, che hanno fatto corteo dalla Sapienza, quindi proprio dall'università, fino a confluire qua in Piazza Esedra. Il corteo è arrivato senza nessun problema, sappiamo che c'erano state due settimane fa gli scontri in uscita dalla Sapienza per l'applicazione decisamente, diciamo, zelante e anche violenta da parte della polizia di queste assurde ordinanze contro che vietano di manifestare. Sì, c'erano state numerose cariche da parte di carabinieri e forze dell'ordine contro i ragazzi della Sapienza che volevano uscire dalla cittadella universitaria per manifestare in città. Sono stati praticamente rinchiusi all'interno della cittadella universitaria, sono state bloccate tutte le vie di uscita e appunto sono stati picchiati in modo abbastanza duro. Esatto, e anche per questo, oltre ovviamente che per marcare le proprie specificità, i propri contenuti, la propria soggettività, ma anche per questo oggi gli studenti hanno scelto di nuovo di partire dalla Sapienza, uscire dalla Sapienza come gli era stato impedito l'altra volta per congiungersi al corteo. Sono già arrivati, non solo non ci sono stati incidenti, ma addirittura hanno detto che c'era proprio un'assenza totale di polizia, se non qualcuno in borghese. È stata fatta proprio la scelta di lasciare arrivare il corteo senza nessun problema e ora il corteo degli studenti si sta immettendo nel corteo principale. Sono arrivati altri due cortei, altri due piccoli cortei, diciamo di quartiere, che sono poi venuti a confluire, uno dei blocchi precari metropolitani e uno dell'assemblea di lotta per la casa. Hanno fatto due cortei, ovviamente non enormi, ma comunque altri due cortei di centinaia di persone che sono andati poi a aggregarsi qua al corteo. Il corteo sta iniziando a muoversi, sta iniziando a partire, anche se ovviamente dietro si sta ancora riempendo, dalle laterali continua ad arrivare gente. Ecco, riesci a raccontarci un po' qual è la composizione del corteo, chi c'è davanti, chi certo apre, che striscione? Sì, sì. Il corteo è aperto da uno spezzone di precari, non vi so dire ancora in questo momento, perché non sono arrivato proprio alla testa, allo striscione d'apertura. Mm-hmm. Credo che la novità, se vogliamo come dire, estetica, poi in realtà anche politica rispetto alle manifestazioni di questo genere dell'ultimo periodo, diciamo a quelle dei sindacati di base soprattutto, è che si è fatta la scelta di non fare gli spezzoni dei vari sindacati di base separati tra loro. Cioè si va un po' per categorie, un po' per località geografiche di provenienza, per città di provenienza, e quindi su tutti i sound system e poi un po' in tutti gli spezzoni ci sono bandiere COBAS, RDB Cube e anche qualcuna SDL che, diciamo, convivono. Non ci sono gli spezzoni rigidamente separati dai tre sindacati. Comunque precari davanti, poi appunto spettoni dei sindacati di base, ma diciamo del patto di base, con i sindacati di base un po' misti tra di loro, e poi dietro il resto delle realtà cittadine, quindi centri sociali, quindi appunto gli studenti che stanno arrivando dalla Sapienza, quindi i movimenti di lotta per la casa, e in fondo eventualmente partiti, non ci sono ancora arrivato, ma diciamo che era stato detto chiaramente che bandiere di partito e eventualmente addirittura spettoni di partito erano tollerati solo proprio in fondo al corteo. Sì, ecco, quindi diciamo che possiamo parlare della nascita operativa sulla piazza di questo patto di base che abbiamo visto che si è andato strutturando tra i sindacati di base negli ultimi mesi e che, come ricordavamo anche prima quando tu non eri in diretta, insomma oggi scendono in piazza con delle rivendicazioni, con una piattaforma ben precisa. Non so se tu hai voglia di ricordarla un attimino, le motivazioni di questo corteo che attraversa la città di Roma quest'oggi. Sì, certo, c'è una piattaforma articolata di lotta non tanto diciamo contro la crisi, come è uscito spesso da altri cortei con uno slogan che in realtà vuol dire tutto e niente, ma contro chi questa crisi l'ha provocata, contro chi pretende di gestirla facendola pagare sempre a precari, studenti, lavoratori subordinati, classi popolari. Quindi si chiede il blocco dei licenziamenti, moratoria immediata dei licenziamenti, si chiede continuità di reddito, quindi reddito sociale per i precari, si chiedono ovviamente aumenti salariali consistenti, si chiede la gratuità dei servizi pubblici, un meccanismo di stato sociale reale, si chiede anche un'idea diversa proprio di modello di sviluppo, nel senso accanto alle tematiche più prettamente sindacali o comunque legate al mondo del lavoro, si parla anche di difesa dei beni comuni, quindi contro ogni forma di privatizzazione dell'acqua e quant'altro, e si parla di difesa del territorio e quindi, come dire, una presa di posizione forte anche contro tutto il meccanismo delle grandi opere, contro il modello di sviluppo che si propongono. Quindi sì, piattaforma estremamente ampia, articolata, radicale, su cui poi insomma è ovvio che dopo bisogna vedere da tutto ciò cosa discende in termini di battaglie concrete da portare avanti nei territori e di obiettivi realmente praticabili. Sì, ecco, cioè, su questo punto di vista, cioè anche riprendendo un po' i punti della piattaforma, abbiamo visto in questi giorni, poi magari avremo modo di approfondire meglio nel corso di questa trasmissione, che comunque in questo periodo in diverse località italiane il patto di base ha messo in campo diversi momenti di mobilitazione, è di ieri ad esempio la presenza, contestazione a Torino di fronte sotto il Palazzo del Lingotto dove si teneva la riunione annuale del CDA della RAI, che tra l'altro ha sancito utili per la Fiat pari a circa 1200 miliardi di euro che verranno redistribuiti agli azionisti ovviamente. Ma iniziative di lotta e di mobilitazione si sono avute un po' insomma su tutta la penisola e a questo punto di vista insomma per concludere, no, sui punti della piattaforma ci tenevo a ricordare che ad esempio la lotta per l'acqua che è partita da Roma già parecchi anni fa in vista della volontà delle amministrazioni del Lazio e in particolare della nuova amministrazione Alemanno a Roma di avviare la privatizzazione del servizio di acqua che ha già avuto delle sperimentazioni nefaste, ricordiamo ad esempio a Latina dove anche i cittadini si erano mobilitati, aveva avuto una grossa eco anche su programmi televisivi nazionali. Ecco, volevo solo ricordare che tra i punti del nostro candidato sindaco a Bologna Cazzola c'è proprio questa volontà di attuare anche qua una privatizzazione selvaggia di un bene pubblico e primario come l'acqua, e buona così direi potremmo concludere. Yeah, così sì, questo sarà uno poi dei terreni su cui dovremo andare a articolare la famosa piattaforma localmente sui territori e farla diventare battaglie concrete, è chiaro. Esatto. anche ricordando che Emilia Romagna in questo periodo, ma spero che appunto poi avremo modo di approfondire anche con altri interventi, sta vivendo un periodo di messa in cassa integrazione di una quantità spropositata di fabbriche nel territorio emiliano-romagnolo, che quindi anche sui punti della difesa del salario, della difesa del reddito e della costruzione di solidarietà di base dal punto di vista lavorativo ma anche sociale, come dire, anche noi in Emilia Romagna non siamo certo esenti da problemi, anzi li si stanno vivendo con molta forza, come poi in alcuni casi le lotte che riescono a mettersi in campo riescono bene a testimoniare e a controinformare su queste situazioni. Perfetto, dai, io cerco di portarmi verso la testa del corteo. Okay. E poi insomma direi che ci sentiamo tra poco, cercando di avere anche qualche ospite, qualche intervista. Insomma. Perfetto. A dopo. Benissimo. Grazie, ciao Alvin. A dopo. Ok. Noi torniamo in diretta dopo questo primo collegamento con la piazza. E io volevo un attimo ricordare, insomma, visto che si parla oggi di welfare e appunto di difesa del reddito e sì, dei salari dei lavoratori. E di come il G14 di domenica e di lunedì cercherà di affrontare la crisi economica dal punto di vista di che misure di stato sociale o come ripensare il welfare in tempi di crisi, volevo ricordare che in questi ultimi anni siamo stati sottoposti a un processo di ridefinizione di quelli che erano i servizi sociali, più in generale della logica del welfare, quello che comunemente viene definito il passaggio dal welfare al workfare, in cui sostanzialmente attraverso tutta una serie di meccanismi si scarica sul lavoratore la responsabilità della disoccupazione, per cui in sostanza cerca di promuovere e forzare l'ingresso nel mercato del lavoro in modo indipendente. Questo con appunto numerosi strumenti. I sussidi di disoccupazione non sono più una protezione che viene garantita al lavoratore nel momento in cui perde il lavoro, ma bensì diventano degli strumenti per forzare il lavoratore ad accettare qualunque tipo di lavoro disponibile, purché lavoro, indipendentemente dal salario che viene percepito, indipendentemente dalla qualifica professionale. Per cui un meccanismo appunto che negli ultimi anni ha portato non solo allo smantellamento del welfare, ma a un vero e proprio cambiamento di paradigma in questo senso. Le cosiddette politiche attive del lavoro, che hanno appunto l'obiettivo di, come dire, scaricare sui lavoratori la responsabilità della ricerca del lavoro. A questo punto direi che potremmo sentire un altro po' di musica e poi ricollegarci con la piazza e magari provare a sentire qualche altro nostro inviato dal corteo che è partito e, come abbiamo sentito da Alvin, è già arrivato in Piazza Esedra organizzato dall'Onda. Ok, andiamo con la musica. Cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, shalala. Poi non tira, resterei

Eccoci di nuovo in diretta, siamo in collegamento con Tommaso, studente dell'Onda bolognese, che ha partecipato al pezzo di corteo dell'Onda che si è ritrovato alla Sapienza per confluire poi nel corteo che partiva da Piazza Esedra. Ciao Tommaso. Ciao, ciao a tutti e tutte. Allora, com'è andata la Sapienza? Com'è stato questo pezzo di corteo, anche rispetto, insomma, a quello che è successo la settimana scorsa, alle cariche che ci sono state alla Sapienza? Sì, questo pezzo di corteo che, appunto, come avete giustamente ricordato, ha collegato, insomma, la Sapienza a piazza, insomma, alla piazza davanti a Roma Termini, dove appunto sta sfilando in questo momento il corteo, il nostro sezione composto per la stragrande maggioranza da studenti universitari, ma non solo, insomma ci sono delegazioni anche di studenti medi come dei blocchi precari metropolitani e di Action. Come dicevo, lo spezzone è in questo momento entrato nel corteo, uno spezzone che ha avuto il significato non solo simbolico, appunto, di partire dalla Sapienza per portare in piazza tutto quello che è, appunto, il portato, il costrutto delle lotte dell'Onda che continuano e che hanno attraversato l'autunno e speriamo, insomma, continuino a attraversare anche la primavera in questo paese. Dall'altro lato, insomma, ha assunto questo pezzettino di corteo un valore estremamente importante dopo, come insomma giustamente ricordavate, le violente cariche che gli studenti il 18 marzo hanno appunto subito. Un corteo non concesso da questura e prefettura, ma un corteo assolutamente determinato che è appunto riuscito a ricongiungerci al, diciamo, corteo più ampio, quello del sindacalismo di base, che, insomma, come si è ricordato più volte dal camion, ha fatto in questo modo carta straccia di quello che è il protocollo sulle manifestazioni legate appunto al pacchetto sicurezza, firmato fra l'altro sia dai sindacati generali sia dalla grande maggioranza delle forze politiche dei partiti, assolutamente sì. Se non sbaglio, tra l'altro, appunto questo corteo partito dalla Sapienza non è un corteo per cui non è stato assolutamente chiesto nessun tipo di autorizzazione in questura, e anzi gli studenti, attraverso una lettera pubblica alla cittadinanza, hanno rivendicato questa scelta e hanno spiegato le motivazioni per cui hanno deciso di partire dalla Sapienza e di sfidare i divieti imposti dai decreti Maroni applicati poi nelle singole città. Assolutamente sì, proprio su questa, insomma, proprio da questa lettera anche noi come Bologna, ma insomma delegazioni da tutta Italia, da Padova, Venezia, a Torino, Milano, Napoli, insomma siamo Pisa, siamo qui oggi proprio per non solo per portare la nostra solidarietà, la nostra vicinanza ai compagni di Roma, ma anche perché questa battaglia sul pacchetto sicurezza, su queste leggi, insomma, liberticide, in un momento di crisi impediscono di manifestare nei centri storici delle nostre città, insomma sono battaglie che accomunano tutte noi. Quest'oggi, insomma, sicuramente il nostro pezzone si caratterizza fortemente su tutta quella che è la battaglia per un reddito garantito, ma un reddito contro la crisi deve per forza di cose accompagnarsi anche a un meccanismo di libertà contro la crisi. Questo, insomma, è per noi imprescindibile, e manifestare in centro in questo momento è, insomma, per quanto ci riguarda, assume il valore di una libertà fondamentale, ecco, in questo momento ci viene assolutamente negata. Certo. Bene, Tommy, per il momento ti ringrazio, direi che sei stato più che esauriente su come è andata questa prima parte, e ci risentiamo più tardi nel corso del corteo. Va benissimo. Grazie. Tutto. Ciao. Ok, ritorniamo in diretta dagli studi di VAG 61. Ecco, abbiamo sentito le parole di Tommy che, insomma, ci spiegavano le motivazioni con cui l'Onda si è recata in piazza quest'oggi, quindi a sostegno anche delle come dire, della difesa del reddito e anche per una sua per un suo allargamento sia in termini quantitativi che in termini proprio pecuniari, e sia soprattutto, insomma, questa motivazione centrale, trattandosi della piazza di Roma dopo i fatti delle scorse settimane, per ribadire fermamente, nel comunicato che è stato diramato dalla Sapienza, era ribadito per ben tre volte l'importanza, la centralità e assolutamente il diritto totale, e quello sì universale, poter manifestare, uno, di poter manifestare, secondo, di poterlo fare partendo dalle università, che sono luoghi pubblici del sapere e quindi secondo noi basati su forme, su quella condivisione che poi genera solidarietà e che è alla base di qualsiasi tipo di comunità o società che voglia dirsi tale. E terzo, insomma, ribadire che la possibilità di attraversare una città, per quanto possa essere fonte di disagi dall'altro lato, facciamo proprio per quello. Sì, a parte che, insomma, al di là delle proposte fantasiose sugli scioperi virtuali e quant'altro, si potrebbe fare della facile ironia, che magari lasciamo ad un altro momento, però il fatto è che manifestare in pieno centro è assolutamente una cosa necessaria, proprio per le ragioni di una manifestazione che per forza di cose vuole essere aperta, allargata, vuole portare stimoli, contenuti e contaminazione anche di idee, di pensiero e di azione, e quindi per forza di cose gli obiettivi poi sono i centri delle città, quelli che vengono vissuti quotidianamente da tutta la cittadinanza, da tutte le persone che vivono, che attraversano quei luoghi. Ecco, io riguardo a, insomma, ora che abbiamo aperto questo capitolo sulla partecipazione studentesca, mi premerebbe, come dire, ricordare e annunciare, ampliare l'informazione quanto accaduto due giorni fa in quel di Napoli, in cui si teneva al Palazzo dell'Orientale, in cui sono attivi collettivi studenteschi nati dall'Onda o anche già preesistenti, si teneva appunto una giornata antifascista che appunto seguiva una serie di provocazioni attuate da parte di Giù Fuan, alleato a blocco studentesco, che per presentarsi alle elezioni e per garantirsi l'agibilità della campagna elettorale studentesca, non ha esitato, come recitano nel comunicato, a mettere in campo aggressioni armate con coltelli e spranghe a danno di militanti dei collettivi studenteschi, a danno di studenti comunque riconosciuti in base all'aspetto fisico come appartenenti alla sinistra, e che in questa settimana, insomma, si è andata questo trend di aggressioni si è andato moltiplicando e ha portato a, appunto, due giorni fa, il 26 marzo, giovedì, a questa giornata con la presenza di mostre, dibattiti, banchetti e volantinaggi pubblici intorno al Palazzo, appunto, dell'Orientale, autorizzata dal rettore in questo caso, a differenza che a Torino, dove ricorderete a seguito di episodi analoghi la polizia era entrata addirittura dentro gli atri e percorrendo anche le scale dell'università, rincorrendo studenti picchiandoli all'interno, appunto, dei luoghi deputati al fermo sapere traendo in fa. Ecco, tornando sui fatti di Napoli, la cosa preoccupante e è la prima cosa preoccupante essenzialmente è che sia stata data pochissimo risalto alla notizia che vi andrò a esporre immediatamente. Insomma, secondo testimoni che sono gli studenti che erano presenti sul luogo, ma anche una quantità di cittadini, l'altro ieri, davanti alla stazione di Napoli, dove stavano arrivando alcuni manifestanti che erano stati ad Acerra per contestare l'inaugurazione del termovalorizzatore, altrimenti detto inceneritore, sono stati prima, come dire, oggetto di attenzioni particolari da parte di gruppetti di neofascisti che si aggiravano per la stazione in cerca di qualcuno da aggredire, in cerca insomma del contatto. E in un momento di quasi, cioè immaginiamo di quasi surrealtà, si è vista una macchina della polizia arrivare sgommando davanti al piazzale della stazione. Sono scesi i due poliziotti che erano a bordo e uno di loro ha sparato a braccia tese dritte verso gruppi di giovani che stavano uscendo dalla stazione. Cioè, questo ovviamente, come potrete immaginare, è un fatto di gravità inaudita e che fa correre i brividi sulla schiena, penso un po' a tutti quanti seguano il percorso dei movimenti, delle mobilitazioni in università, ma anche a tutti coloro che insomma non girano con il manganello nella tasca. Ecco, il collettivo autonomo universitario dell'Orientale di Napoli ha tenuto a specificare questo fatto perché dai media nazionali e anche locali la vicenda è stata derubricata a un semplice colpo esploso in aria per disperdere la folla. E insomma, infatti non ha avuto nessuna eco da nessuna parte, quando invece però il comunicato che potete trovare sul blog del cau.noblogs.org va molto fortemente a chiarire il fatto che ci sono davvero, si può parlare di decine e decine di testimoni che hanno visto la gente puntare la pistola appunto a braccio teso avanti. E poi spiegherò perché secondo me è importante puntualizzare anche le direzioni, e ha esploso un colpo di cui sono rimasti segni addirittura sui muri della stazione. Sono state prodotte delle foto che sono reperibili via internet su questo punto, ed ecco la cosa allucinante che si ripercorre qui, quella triste vicenda che sta andando in corso in questi giorni nelle aule giudiziarie di Gabriele Sandri, per cui insomma c'è stato un dibattito di mesi su come debba essere inclinato un braccio per sparare e su le misure di calibro, di traiettoria balistiche, ecco, mi suggeriscono dalla regia, balistiche, per riuscire insomma a colpire un'auto in partenza a 60 metri di distanza con due corsie di autostrada che passavano in mezzo. Ecco, già quell'episodio aveva lasciato perplessi molti, soprattutto aveva lasciato perplessa la ricostruzione che veniva data dai media e vabbè, chiaramente dall'agente spaccarotella indagato per omicidio colposo, appunto i fatti di ieri, non ce n'era bisogno di ribadirlo, ci parlano di una montante, se vogliamo, anche dovuta a una preoccupazione per il periodo straordinario di lotte che si stanno svolgendo nel nostro paese in questo periodo, però una preoccupazione che diventa violenza anche, anche omicida, non si può negarlo, da parte delle stesse forze dell'ordine che con atti di un'idiozia spropositata vanno insomma a creare tensione laddove non è necessaria, addirittura vanno a portare morte laddove si chiederebbe, laddove loro stessi dicono di voler portare ordine pubblico, ecco. Questa notizia insomma mi ha molto colpito e ci tenevo a rimandarla, e credo che un occhio aperto su questo tipo di episodi vada tenuto, senza per questo senza togliere a tutti i motivi e a tutte le lotte che si stanno vivendo in questo periodo, che hanno un'importanza capitale, però ecco, adesso possiamo dire che sappiamo che dall'altra parte non verranno fatti sconti, e che quindi insomma le responsabilità aumentano, ma anche la determinazione e la volontà di proseguire con le lotte è un'arma, quella sì, fondamentale in questo periodo di restringimento non solo delle libertà democratiche, ma appunto di veri e propri attacchi deliberati contro chi manifesta in difesa dei propri beni comuni o comunque in difesa dei propri diritti, ecco. Bene, grazie Dario, ti ringrazio per aver riproposto questa vicenda di Napoli, che appunto, come dicevi tu prima, di una gravità allucinante. Non è nel primo né l'ultimo episodio che purtroppo verremo di questo tipo. Direi che adesso possiamo prenderci una pausa musicale e risentirci. Alleggeriamo un attimo i toni e andiamo ad ascoltarci della buona musica che Sirio prontamente manderà nella traccia. I fascisti alla porta, storia strana in strada, bruciata, Roma in nervosa bolla, col partito primo nero in casa, so che dentro ogni borgata dispersi pazzi votano come il verme della villa d'Arpad, e libera caduta tra le nuvole di un'illusione. Bene, così stanno le storie, 1 milione di persone in casa non basta, senza più cittadinanza tu non si alza su. Sento parlare della razza pura, non è una storia conclusa, chiusa, così sono cresciuto, razza umana, mette le schermo, ha cancellato il tempo, qua chi ha che le comando manda indietro il mondo, perché ho già visto il film e il mondo, tragica trama, la gente in fila che si incammina, in contrastare non esiste da arrancando sale in cima, ad aspettarla c'è una ghigliottina. Il tuo posto un premio, un regalo dato, tutti i pezzi per la merda di lavoro immediato, ecco i fascisti in doppio petto, ci sono addosso e conflitto, parla, puoi parlare ancora, puoi parlare, parla, che è stato liberato pochi giorni ora. Faccia lontane sempre più guarda, ti vesti, ti metti di portare i chioni, un bacio da 35 minuti, suona metà pure, anni difficili davanti, e tutti figli di dinagno, sono partigiano e sarò chiaro, perché chi si abitua tutta a te fasci, assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano, difficili davanti, e tutti figli di dinagno, sono partigiano e sarò chiaro, perché chi si abitua tutta a te fasci, assassini sullo sfondo, doppio petto in primo piano. Ora che siamo un bersaglio chiedo un consiglio, dove è la tua via d'uscita, dove è finita, andiamo, guardo oltre il finestrino, c'è le gocce della pioggia che lo appanna, cerco gli angoli e gli incroci, cerco musica che arriva dalla folla, storia strana, fuori strada, ognuno ha la sua casa, ti capisco certo, Roma è nervosa, ti stai perdendo nel caos, storia pericolosa, sì lo so, che non è colpa tua, tu non sei razzista, sei realista, sei nessuno, anonimo nel panico, un senza nome, un italiano della sua nazione. Anni difficili davanti, e tutti i figli di dinamio, sono partigiani, sarò chiaro, perché ci si abitua tutta a te, fasci, assassini sullo sfondo, lo più bello in primo piano, difficili davanti, e tutti i figli di dinamio, sono partigiani, sarò scoppio perché è il primo piano. Siamo di nuovo in diretta dagli studi di VAG 61 in via Paolo Fabbri 110, Zic Radio, per questa diretta dai cortei romani. Siamo in collegamento con Roma, con Alvin. Alvin, è partito il corteo? Sì, il corteo è partito, ha già percorso anche un buon tratto di strada, è partito anche abbastanza veloce. La coda, nel momento in cui io mi sono mosso pochi minuti fa, era comunque ancora in piazza Esedra. Direi che il corteo, come era prevedibile, è cresciuto molto. Per ora, con le dichiarazioni ho chiesto un po' agli organizzatori, siamo tra le 30 e le 50.000 come stima, ma nessuno di loro poi ha potuto vedere tutto il corteo fino in fondo, quindi potrebbe anche aumentare la stima. Certo. Lo speccione d'apertura è quello che era poi uno degli slogan dei comunicati, del patto di base, è quello: voi di 14 con i responsabili della crisi, noi con lavoratori precari e disoccupati. Seguono una serie di altri striscioni, basta precarietà, dipendere lavoro, casa e beni comuni. E diciamo la novità, che poi l'ho appena anche prima, di questi striscioni e di questo corteo, è che sono tutti striscioni unità con la firma dei tre sindacati, e seguono altri spezzoni misti e non spezzoni, diciamo, ben definiti e separati dei tre sindacati di base. Dopo la parte sindacale invece c'è lo spezzone della Sapienza, che come dicevo prima è arrivato senza nessun tipo di problema. Sì, abbiamo sentito Tommy in collegamento, esatto. Prima. Ovviamente quel tipo di spezzone ha caratteristiche diverse, sono tutti ragazzi giovani, studenti, spezzone molto più corto ma molto più compatto, buona parte incordonati, striscione d'apertura, guerriglieri anomali contro il G14 per un nuovo welfare, ovvio riferimento alla definizione di guerriglieri che era stata data dal ministro Brunetta. Dal ministro Brunetta, ovviamente dal suo punto di vista in chiave, come dire, offensiva e terroristica, così. Poi in realtà è una parola che non si fa neanche così schifo. No, esatto, che più di una volta abbiamo rivendicato. Assolutamente. E ecco, segue, e questo è interessante perché io quantomeno, insomma, diciamo, mi ha colpito, non me l'aspettavo in questi termini, segue allo spezzone studentesco un grosso spezzone di movimenti di lotta per la casa, con un sistema, una spezzone di Action, e un altro di una, diciamo, assemblea di lotta per la casa non firmata, in cui non si capisce bene se è un riferimento a un determinato spazio sociale o area politica. Ecco, due spezzoni, entrambi questi, estremamente lunghi, compatti, partecipati, con anche una caratteristica proprio di presenza di popolo e anche di molti ragazzi migranti, e signore con le carrozzine, donne e bambini migranti. Quindi, diciamo, la dimostrazione, forse la testimonianza di come a Roma, contrariamente ad altre città, tra cui bisogna dire anche Bologna, il movimento delle case occupate, delle occupazioni di case, degli stabili, ha assunto veramente una dimensione che va molto oltre a quella, come dire, dei militanti, dei singoli militanti che occupano le case. Qua veramente è un tipo di risposta collettiva, diffusa, a un problema sociale che evidentemente è enorme, e che oggi, come dire, porta un tipo di specificità in piazza con molta forza. Cioè, saranno un buon 2000 persone solo quel tratto di corteo, e anche proprio con una bella presenza colorata. In fondo seguono, come previsto, insomma, i partiti, in pratica Sinistra Critica, PCL, Rifondazione, tre partiti che generalmente partecipano a queste iniziative, in fondo. Questa è un po' la composizione del corteo. Bene, Alvin, ti ringrazio e direi che ci risentiamo più tardi quando avrai delle interviste. Io sono con Piero Bernocchi, del portavoce nazionale dei COBAS, sono riuscito a avvicinarmi adesso. Se avete qualche minuto, lo sì, abbiamo tutto il tempo che vuoi. Perfetto. Piero, questa manifestazione, partiamo proprio dal senso, come è nato il percorso del passo di base verso questo corteo? Beh, è la dimostrazione di quello che volevamo, cioè mettere in campo una grande alleanza del sindacalismo alternativo, una piattaforma complessiva che non è soltanto una piattaforma sul lavoro, perché comprende le questioni del reddito, della casa, delle pensioni, dei servizi sociali, dell'ambiente, e però raccogliere intorno a questa alleanza una più ampia alleanza sociale, giusto ciò che si oppone a una soluzione della crisi fatta da quelli che l'hanno provocata, piazza, oltre che ai lavoratori e alle lavoratrici dei COPAS, della CUB e del CTL, sono migliaia e forse anche più di migliaia di giovani di centri sociali, studenti, universitari, medi, quindi è una grande alleanza sociale che a mio avviso ha una prospettiva importantissima in questo paese, e che lavorerà insieme e camminerà insieme fino allo sciopero generale del 23 aprile, che avverrà però questa volta non con una manifestazione nazionale ma con manifestazioni regionali. Ecco, un'ultima cosa, che noi a Bologna siamo, come dire, molto sensibili a questo tema. Il corteo sta sfilando per il centro di Roma e c'è stata una trattativa che poi ha avuto esito positivo per il fatto di avere un corteo diverso da quelli, diciamo, previsti da questo infame protocollo siglato qua a Roma. A Bologna invece del protocollo hanno fatto direttamente un'ordinanza, un divieto che noi abbiamo violato sabato scorso, quindi diciamo in questa fase questa mobilitazione assume un senso particolare anche in difesa del diritto di manifestare. Ovviamente sì, tra l'altro questo attacco al diritto di manifestare liberamente va di pari passo all'attacco al diritto di sciopero. In entrambi i casi si attaccano due diritti costituzionali, perché in Italia, a differenza di altri paesi, per esempio nel nord Europa, il diritto di sciopero non è un diritto costituzionale, ma in Italia lo è, e il diritto di manifestare è garantito in Italia dall'articolo 17 della Costituzione, che dice che ognuno può manifestare liberamente dove vuole, a patto di dare notifica all'autorità di polizia e a patto che non esistano comprovati motivi di sicurezza e di ordine pubblico che lo impediscano. Quindi il protocollo a Roma, ma lo stesso discorso può valere per Bologna o per qualsiasi altra città, può avere valore soltanto per chi lo firma. Peraltro coloro che lo firmano loro stessi non lo rispettano, perché per esempio il 4 prossimo la CGIL farà a Roma 5 cortei, e di questi 5 cortei che confluiranno al Circo Massimo non c'è neanche uno che va nei 6 percorsi prestabiliti. Quindi è una barzelletta che però non era gestibile, abbiamo però fatto bene noi a farlo saltare subito. Dopo tutto il teatrino che c'è stato in questi giorni a Roma, probabilmente nelle cronache fuori Roma la cosa non è stata seguita dettagliatamente, ma qui tutte le pagine romane erano ripiene di questi rischi di scontro. Stamattina la polizia all'università non si è nemmeno presentata, qui in testa c'è gente senza caschi, senza scudi, senza alcuna esibizione, quindi è stata una manfrina che però alla fine si è conclusa con la libertà di manifestare riaffermata. Sei già in grado di darci una stima sulla partecipazione a questo corteo? Ma noi abbiamo dato una cifra intorno alle 50.000 persone, che è più di quello che ci aspettavamo, perché per la verità la formula della manifestazione di sabato pomeriggio non è il massimo per i lavoratori, perché per esempio, tanto per dire, la situazione del settore dove i golpes sono più forti, la scuola, i lavoratori della scuola sabato mattina lavorano, per cui portarli a Roma di pomeriggio richiede permessi che noi non abbiamo, oppure richiede non andare al lavoro, oppure richiede scioperare, ma noi insomma di sabato non si sciopera, quindi non è la formula migliore per noi, e quindi questa cifra per noi vale tanto. Io credo che quando andremo a vedere la gente che verrà in piazza il 23 aprile, sommando le manifestazioni delle varie città, avremo molta più gente, però 50.000 in queste condizioni mi sembra un ottimo risultato. Perfetto, grazie a Piero Bernardi. Grazie Alvin per questa intervista a Piero Bernocchi dei Cobas. E non lo so, se non hai altro da aggiungere, io per il momento chiuderei qui questo collegamento dalla piazza e ci risentiamo più tardi. D'accordo, a tra poco. A tra poco, ciao. Grazie, ciao. Ecco, abbiamo sentito anche dalle prime stime, insomma, che ci sono arrivate da Roma, un'importante partecipazione da tutte le parti d'Italia, ma soprattutto da molti settori sociali, e quello che diceva Bernocchi, insomma, mi ha molto colpito quando parlava di questo blocco sociale che si sta creando e si sta costruendo attorno appunto a dei punti cardine, che poi sono i punti della piattaforma con cui si scendeva in piazza quest'oggi a Roma e che abbiamo già ripetuto, in aggiunta alla difesa del diritto di manifestazione e agli attacchi che stanno venendo in questo periodo dal governo, che appunto, insomma, anche a Bologna abbiamo vissuto come prima quasi in assoluto giornata contro i divieti, scusate. Sì, appunto, Dario ricordava la manifestazione che c'è stata a Bologna settimana scorsa, che ha visto la partecipazione di un sacco di persone e di realtà cittadine che sono scese in piazza e sono riusciti a violare il divieto imposto dalla prefettura in applicazione al decreto Maroni, quindi un grosso risultato quello che è stato portato a casa dai movimenti la settimana scorsa qui a Bologna. A questo punto direi di prenderci di nuovo una pausa musicale, non prima però di avervi ricordato il nostro numero di telefono per intervenire in redazione, 051 58 80 406. Chiunque volesse chiamare, noi saremo felici di rispondergli. A più tardi. faceva la federazione. Larci, larci, i fonici, i fonici. In quel circoletto ricavato nella sezione del quartiere Pappa Gnocca, il partito metteva i soldi, la federazione giovanile e i giovani. Larci, gli spettacoli. Solo per quello. Una sera tocca ad una specie di cantautore. Il fonico dell'Arci che lo accompagna è affamato. E mentre attenta al panino che gli ho appena preparato, anticipa le magnifiche sorti dell'uomo in questione. Fonicare. hope never to come back. Eccoci di nuovo qui in diretta. Come abbiamo sentito prima da Alvin, il corteo è partito. Adesso siamo in collegamento sempre con Roma, con l'Andrea dell'Onda Anomala di Bologna, che ci racconta un po', insomma, il senso di questo spezzone che è partito dalla Sapienza e più in generale di quelle che sono state le riflessioni che l'Onda ha fatto in questi mesi sul tema del welfare. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti e tutte. Ah, innanzitutto io partirei da un dato di fatto, che è un dato di fatto importante. Lo spezzone del movimento, lo spezzone dell'Onda Anomala, è uno spezzone che è partito da Piazzale Aldo Moro, cioè esattamente da dove pochi giorni fa la violenza della polizia di questo governo ha caricato gli studenti. Oggi questo divieto è stato violato, percorrendo appunto il tratto che va dall'Università La Sapienza fino a Piazzale Esedra. Quindi oggi abbiamo tutte e tutti, il movimento tutto ha violato il divieto, il movimento indipendente ha violato questo divieto, ha avuto la forza di rompere questo divieto dell'accoppiata Alemanno-Maroni. Un dato molto importante, un dato significativo. E questo parla direttamente della consistenza dell'Onda, della capacità che hanno i movimenti autonomi di rompere le forme di controllo e di disciplinamento che il governo appunto vuole imporre ai movimenti. Questo oggi è stato completamente ribaltato dentro la porta di questo spezzone autonomo indipendente. Poi il corteo si è riallacciato all'altezza di Piazzale Esedra, al corteo del sindacalismo di base. Lo spezzone dell'Onda è uno spezzone che parla il linguaggio di un nuovo welfare e di un reddito garantito. Noi siamo tutte e tutti convinti che dentro la crisi si sta con le lotte a partire dalla riappropriazione della ricchezza sociale, ed è più che mai necessario aprire un campo di lotta per la riappropriazione economica di reddito, diretto e indiretto, agganciata ma anche sganciata dalla prestazione lavorativa. Quindi un discorso in cui la linea di fuga dalla precarietà è immediatamente un cantiere di lotta per la riappropriazione di reddito per tutti e per tutte, a maggior ragione in una fase, questa, nel nostro paese, alla luce della crisi, in cui il confine storico, tradizionale, tra garantiti e non garantiti viene meno. Ecco, siamo convinti che di fronte a disoccupazione, recessione, licenziamenti di 75.000 lavoratori ogni mese di questo anno, sia più che mai necessario aprire un campo di lotta per il reddito. Certo, ti ringrazio Andre. E vuoi aggiungere qualcosa d'altro? So che, come abbiamo dato ampio spazio su Zic in questi giorni, tu fai parte anche di un'occupazione, di un progetto che ha trovato casa 3 giorni fa a Bologna, Bartleby. Vuoi parlarci un attimo di come è nata questa iniziativa da parte di una parte dell'Onda bolognese? Sì, sì, Bartleby parla il linguaggio delle pratiche dell'Onda. Parla il linguaggio delle pratiche che sono sviluppate in questi mesi, viene da quel tessuto straordinario di laboratori di autoformazione dentro all'università, ne abbiamo già parlato in questi giorni, è un cantiere, un atelier della produzione artistica e culturale, è legato mani e piedi alla forza e alla consistenza dell'Onda. E quindi questa esperienza va avanti con forza, e mi pare il dato più importante da sottolineare che ormai l'esperienza di Bartleby sta mettendo in discussione anche formule di identificazione rispetto a quello che sono gli spazi occupati in città, e sta creando un dibattito sul rapporto università e divenire metropoli della città di Bologna. Quindi mi pare un successo. Ovviamente c'è chi ha paura di queste linee di sperimentazione, di queste linee di creazione comune, e minaccia lo sgombero. Certo, qua ci riferiamo alla prorettrice Monari e più in generale alla gestione che l'università sta avendo della vicenda. Esatto, esatto. Però c'è un campo di legittimità che sta passando anche attraverso non solo le iniziative quotidiane che costruiamo in questo atelier, ma anche attraverso due appelli molto importanti, uno che firmeranno scrittori, intellettuali, artisti, musicisti, un appello che sta già sulla prima pagina di Carmilla Online di Primo Onore, due siti molto importanti per la produzione letteraria di questo paese, e un altro appello che sta riscuotendo molto successo anche dentro a alcuni professori dell'Università di Bologna, associati, ordinari, ricercatori. Un appello rivolto all'Università di Bologna, a chi lavora all'Università di Bologna, contro lo sgombero di Bartoli. Bene, Andrea, ti ringrazio e ci risentiamo magari più avanti nel corso del corteo. Va bene, grazie, ciao. Ciao, ciao. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo sentito di nuovo questo collegamento da appunto uno degli studenti che ha preso parte allo spezzone dell'onda. A questo punto un altro po' di musica, se la nostra regia è pronta come sempre. Siamo il nostro guerrigliero ferrarese, ciao Giacomo. Start again. It's a non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. Pugni chiusi, perduto per sempre, non ha più ragione la vita. Sei tu, sei l'acqua limpida per me, yeah. Il sole tiepido sei tu, amore. Torna, torna qui da me. Pugni chiusi, non in me c'è la notte più nera. Viene l'alba, è un raggio di sole, disegna il tuo viso per me. Oh, mari giunte, tu sei e abbraccio la vita con te. Salvami sorella, saggezza mia stella, dammi la pazienza di un fratello in cella. Fammi uomo che se beve non si muove, mastica per bene un dolore, dolce miele, sangue della neve. Fammi freddo come la vendetta, un po' di ordine nel caos di una città perfetta. Qui nessuno scrive più, nessuno sogna più, se non di non morire di HIV. Senza mamma né papà, chi avrà a cuore la comunità? Come le pantere tanto tempo fa. Sto sotto, apro gli occhi di botto, un sogno ricorrente di ammazzare un poliziotto. Salva me dal mio timore, dal tormento di un errore. Io mi chiedo l'esperienza, la meditazione. Un uomo incassatore, come vedi e come muovono tra noi. Il ritiro tra noi, prenderò i miei punti fuori. Cammino, cura di chi mi è vicino, mi affido. Ho già perduto molti pezzi in giro. Quello che è follia è impazzita per te, è la mia storia preferita, la mia carica omicida. Ora scendi come scende la sera, piano, nera, seria, prima bandiera. Come chi si assume la sua responsabilità intera. Un piede nel vento, uno alla catena, frequentando bassi fondi. Devo dare di più, studiare di più, allenare il mio cervello a stare molto più su. Dove perdo si muove la lancetta fredda, cadaveri galleggiano sul fiume, si vedono passare. Ritorno alla grandezza delle cause del male. Sono il tenace ostinato, un sogno ricorrente per morire soffocato. Saggezza mia stella, dammi la pazienza di un fratello in cella. Fammi uomo che se deve non si muove, mastica per bene un dolore, dolce miele, sangue della neve. Fammi freddo come la vendetta, un po' di ordine nel caos di una città perfetta. Qui nessuno scrive più, nessuno sogna più, se non di non morire di HIV. Senza mamma né papà, chi avrà a cuore la comunità? Come le pantere tanto tempo fa. Sto sotto, apro gli occhi di botto, un sogno ricorrente di ammazzare un poliziotto. Salva me dal mio timore, dal tormento di un errore. Io mi chiedo l'esperienza, la meditazione. Un muove tra statore, come vedi e come muove contro noi, il ritiro tra noi, prenderò i punti poi. Cammino, cura di chi mi è vicino, mi affido, ho già perduto molti pezzi in giro, quello che è follia impazzita per te, è la mia storia preferita, la mia carica omicida, ora scendi come scende la sera, piano, nera, seria, prima maniera, come chi si assume la sua responsabilità intera, un piede nel vento, uno alla catena, frequentando bassi fondi, devo dare di più, studiare di più, allenare il mio cervello a stare molto più su, dove perdo si muove la lancetta, il contrappasso aspetta, punisce chi ha fretta, cadaveri galleggiano sui fiumi, si vedono passare, ritorno alla grandezza delle cause del male, sono il tenace ostinato, ricorrente per morire soffocato, sono ricorrente nel tempo dell'attesa. Scintilliamo a meraviglia, vieni in aiuto, compensa l'incompiuto, ombre mi spingono a bruciarmi in un minuto, impotenza è un male peggiore, su quello che si muove sparo, forse pure un errore, sono un viaggiatore, spingo via il possesso dal mio cuore come una maledizione, non succede se i giorni e il futuro sono un solitario, ma non mi sento solo, confido in un pensiero puro, una persona coraggiosa a cui il mondo deve sempre qualcosa, nella pazza larga, nella penombra verde, una presenza nella stanza, il terzo sogno ricorrente, piantata in terra, come un antico albero da frutto, una sorella non ti lascia mai del tutto. Eccoci, siamo di nuovo in diretta dagli studi di Zic Radio a Vag 61. Colgo l'occasione per rilanciare l'invito a tutte e tutti gli ascoltatori, che in questo momento sono 10, a chiamarci in diretta qui dagli studi di Vag allo 051 58 80 406. Ripeto, 051 58 80 406. Ora noi andiamo a sentirci due contributi che abbiamo trovato in rete. Andrea Fumagalli, docente di economia all'Università di Pavia, analizza i dati sulla crisi economica che sta investendo l'Europa e più in generale il mondo, con ovviamente una particolare attenzione alla situazione italiana. Intervista che era rilasciato per Radio Onda d'Urto, anche in vista del G20 che si terrà a Londra nelle prossime settimane e che sarà il primo appuntamento internazionale di un certo rilievo dei paesi cosiddetti avanzati per appunto concordare delle politiche per affrontare questa crisi. Se dalla regia siamo pronti, inizierei con il primo spezzone di 2 minuti appunto, in cui Fumagalli analizzerà un po' quella che è la situazione economica dell'Europa. La produzione industriale è fortemente condizionato dal crollo del settore dell'auto. Però il settore dell'auto è stato intorno a un crollo della produzione del settore dell'auto di circa il 50%, ovviamente si accompagna tutto il crollo dei settori legati alla produzione dei semilavorati per la produzione dell'auto, quindi parte dell'elettronica, parte del settore legato alla produzione dell'acciaio e via dicendo. Contemporaneamente, per quanto, e questo ovviamente è come se fosse una sorta di volano al ribasso che va a incidere su tutta la produzione industriale, i settori cosiddetti del made in Italy, che non sono legati all'auto, che sono quelli che hanno un po' caratterizzato e tenuto alto la crescita della produzione industriale negli ultimi decenni, anche loro si trovano in grave difficoltà. Tant'è vero che sempre l'Istat ieri ha comunicato che nel corso dell'ultimo anno, cioè il dato tra marzo del 2009 e marzo del 2008, le esportazioni italiane sono diminuite di circa il 25%, anche questo è un dato che non si era mai registrato di questa intensità, anche nei periodi di crisi degli anni 70. Questo significa che c'è una difficoltà del cosiddetto made in Italy, che è particolarmente volto alle esportazioni, cala la domanda internazionale, cala la domanda nazionale per la stagnazione dei redditi e dei salari, quella che è, cioè insufficiente, e questo spiega perché la produzione tende a diminuire. Le strategie delle imprese da questo punto di vista sono essenzialmente legate a far fronte all'eventuale domanda tramite la riduzione delle scorte e non tramite la produzione di nuovi beni. Le scorte hanno raggiunto non a caso nell'ultimo periodo uno dei livelli più bassi degli ultimi 20 anni, e nel clima di incertezza fa sì che le imprese preferiscono, di fronte magari anche a livelli di domanda che possono congiunturalmente crescere, non aumentare la produzione ma appunto ricorrere alle scorte, quindi la produzione tende a non crescere, addirittura a ridursi. Questo avviene sia in Italia che in tutti i paesi europei. Bisogna tenere conto che il dato innanzitutto che è stato presentato dall'Istat è il dato medio di tutto l'anno, cioè è la media dei tassi di disoccupazione trimestrale del primo, secondo, terzo e quarto trimestre. Se andiamo a vedere il dato della disoccupazione del quarto trimestre, questo risulta, solo relativo al quarto trimestre, risulta ovviamente più alto. Le stime pubblicate dalla stessa Istat dicono che nel corso del 2009 la tassa di disoccupazione dovrebbe aumentare oltre l'8% e quindi allinearsi con quello dei paesi europei. Quindi, insomma, la propaganda berlusconiana fa leva sul fatto che c'è quasi un punto percentuale di differenza fra l'Italia e la media europea. Occorre tener conto anche che in Italia abbiamo una struttura di mercato del lavoro fortemente più precarizzato e flessibile che in altri paesi, e quindi bisognerebbe fare, per fare un corretto confronto con altri paesi, bisognerebbe andare a vedere qual è il tasso di disoccupazione e qual è la dinamica del mercato del lavoro nei paesi che hanno una struttura di mercato del lavoro simile a quella italiana. È chiaro che i paesi che sono più caratterizzati da una presenza di forme di lavoro stabile, come la Francia, come la Germania, subiscono maggiormente i contraccolpi della crisi per la chiusura degli stabilimenti e delle fabbriche, che sta alla base per esempio dello sciopero generale della Francia che si è svolto appunto ieri. Mentre in Italia la presenza di medie e grandi imprese è molto più limitata, quindi un effetto immediato di disoccupazione non si sente, perché la crisi va a mordere essenzialmente, va a colpire quelle che sono le figure precarie. Spesso chi ha un contratto precario e non gli viene rinnovato non appare alle luci delle statistiche come un licenziamento, quindi non entra nel calcolo della disoccupazione. E questo ovviamente significa che il tasso di disoccupazione italiano risulta essere sottostimato rispetto a quello che è nella realtà. Abbiamo sentito questi due contributi sulle cifre della crisi uscite da organismi come l'Eurostat e l'Istat italiano, e il commento di Andrea Fumagalli, appunto, che appunto soprattutto nella fine del suo intervento sottolineava questo dato molto importante rispetto alla disoccupazione italiana e al livello di precarietà del mondo del lavoro italiano, per cui appunto tutti quei lavoratori che vengono che in realtà ufficialmente non vengono licenziati, semplicemente non gli si rinnova il contratto, e questi appunto non sono calcolati nelle statistiche Istat. Ecco, aggiungo una cosa, insomma, negli ultimi due giorni sono stati pubblicati delle altre ricerche a livello economico, una della CGIL in risposta a quella dell'altro ieri della Confindustria, e anche solo un attimo per capire l'ampiezza dei dati di cui si parla e a cui, come giustamente si ricordava, bisogna comunque tener conto delle migliaia, centinaia di migliaia di lavoratori precari che non avendo rinnovato il contratto di lavoro si trovano in uno stato di disoccupazione non contabilizzata dalle statistiche. Ecco, appunto, vediamo che sia la CGIL che la Confindustria parlano di numeri relativi alla disoccupazione nel prossimo anno che si aggirano dalle 500.000, quindi mezzo milione, fino al milione di unità di posti di lavoro stabili persi. Ovviamente questi vanno, insomma, questo dato va assieme ad un calo sia per quanto riguarda il prodotto interno lordo, che nel 2009 scenderà del 3,5%, si accompagnerà ad un aumento del deficit e del debito pubblico, quindi con delle ricadute su la spesa statale notevoli, e a cui, insomma, come stiamo vedendo, si cerca di fare fronte tagliando assolutamente tutti quelli che sono i servizi sociali e come dire, le strutture statali, a partire dalla scuola, alla sanità, ai servizi alla persona in genere, e non ponendo invece l'idea di un rilancio dello Stato sociale stesso che appunto vada ad aggredire questa crisi con l'obiettivo di riuscirne davvero più forti dal punto di vista sia dei diritti ma soprattutto del reddito dei lavoratori che in questo momento stanno venendo colpiti in maniera brutale dalle casse integrazioni e dalla disoccupazione. Sì, infatti la giornata di oggi non sarà l'unica giornata di mobilitazione, le cose si stanno muovendo non solo in Italia, nel caso di questa manifestazione contro il vertice del G14, ma anche nelle prossime settimane il calendario europeo è fitto di appuntamenti di movimento, perché il 2 aprile a Londra ci sarà la prima riunione, come ricordava Dario prima nell'introduzione all'audio di Fumagalli, ci sarà il primo summit del G20, il primo fatto da quando si è aggravata la crisi economica, e i movimenti non sono rimasti certo a guardare, per cui sono già previste numerose manifestazioni a Londra e più in generale in Inghilterra a partire già da domani. In particolare già da oggi ci sarà una grande marcia a Londra di Put People First, che è un'organizzazione di sindacati e organizzazioni non governative che attraverserà appunto la capitale inglese, e nella quale gli organizzatori chiedono l'eliminazione dei paradisi fiscali, la riforma del Fondo Monetario e della Banca Mondiale e misure più trasparenti per quanto riguarda i prodotti finanziari. Nei giorni successivi ci saranno altre manifestazioni. Il primo aprile ci saranno ben 4 marce che convergeranno sulla Banca d'Inghilterra per una protesta contro appunto i finanzieri, i banchieri, che sono considerati i primi responsabili questa crisi, che ricordiamo appunto è principalmente una crisi finanziaria. E nella stessa giornata anche gli ecologisti di Climate Camp cercheranno di bloccare il Climate Exchange Market, che è la borsa in cui vengono trattati i diritti all'emissione di gas serra. Un'altra componente della protesta sarà la coalizione di Stop the War, che scenderà in piazza contro l'attacco che c'è stato a Gaza e contro la mancanza di soluzioni politiche al conflitto in Afghanistan, e che prenderà di mira l'ambasciata americana. Il 2 aprile, invece, giorno in cui appunto inizierà il G20, Stop the War marcerà all'Excel Center, dove appunto la sede in cui si terrà il summit. Quindi insomma direi che il calendario dei movimenti europei anche nei prossimi giorni è veramente imponente, e a questo si aggiungono anche altri appuntamenti in Germania, poiché dal 3 al 5, un grosso impegno per i potenti del mondo questa settimana. Sì, finalmente si mettono a lavorare anche loro in questi momenti di crisi. Una magra consolazione è sapere che con i loro charter solcheranno i cieli a caccia di riunioni e assemblee internazionali per cercare di trovare il bando della matassa di questo tracollo finanziario di cui probabilmente solo l'illuminato ministro Tremonti aveva previsto il verificarsi. C'è dell'ironia chiaramente in queste parole, perché non è da oggi che numerosi economisti e anche premi Nobel parlano di un sistema finanziario impazzito e sull'orlo costantemente del collasso. Basta poi andare a riprendere le cronache degli ultimi 10 anni e si vede che negli ultimi 10 anni ci sono state in realtà 3-4 crisi, non di questa portata ma di livello comunque mondiale, e quindi non sono problemi che nascono sicuramente oggi, ma hanno radici ben più profonde, si può dire insomma hanno radici in un sistema capitalista che da qualche decina d'anni a questa parte è impazzito, e ora ne stiamo vivendo tutte le conseguenze. Sì, dicevamo prima appunto che oltre a queste manifestazioni londinesi contro il G20, dal 3 al 5 aprile in Germania si terrà invece il 60° anniversario della NATO, che sarà contrastato da 3 giorni di protesta tra Baden-Baden in Germania e Strasburgo in Francia. Per cui, insomma, seguiremo, cercheremo di seguire anche questi eventi internazionali. Sì, come sempre, in aggiornamento quotidiano sul sito di ZIC potrete trovare tutte queste notizie, anche appunto dalle mobilitazioni europee. Ci tengo ad aggiungere così a questa lista di avvenimenti, se non altro per aver preso contatto diretto con loro, l'appuntamento del 26 e 27 aprile a Louvain, dove si terrà un controvertice dell'università appunto a una 2 giorni dei ministeri dell'università e della ricerca europei, che appunto si terrà nella cittadina francese, sui temi che poi sono quelli che stanno attraversando il movimento dell'onda anomala ormai europea e che vanno nella direzione di una difesa del diritto allo studio, di una difesa del sapere come, insomma, elemento fondante della società e della formazione delle persone. E quindi avremo occasione anche in quel caso di avere notizie di prima mano, perché appunto abbiamo preso contatti con diversi coordinamenti che stanno nascendo in Spagna, come in Francia, come in Germania, piuttosto che nei paesi scandinavi, che si incontreranno in questo contro meeting del 26-27 aprile per parlare di università e per rilanciare la vague européenne, come dicono in Francia. Ebbene, questo punto un po' di musica e sì, dopo torneremo in diretta, e torneremo soprattutto in diretta col corteo romano dopo questa parentesi europea. Ok, nel frattempo abbiamo raggiunto il picco di 13 ascoltatori, quindi vi invitiamo ancora una volta a chiamare allo 051 5880 406 per dare le vostre impressioni, le vostre valutazioni, i vostri sentimenti su questo periodo di crisi e di lotta che stiamo vivendo tutti insieme, di nuovo in diretta dagli studi di VAG 61. Sempre di più, e la nera cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù, c'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation, valutation. Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, solo un caffè, gli stati sono greviti, ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation, ma siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Valutation, valutation. Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle station, nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane, perché assassination, assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. Quando

indicato il passaggio anche molto chiaro del non voler pagare la crisi, tutto il passaggio sulle banche in questi mesi, insomma abbiamo più volte sottolineato. Certo. Come dicevo, il corteo si sta prestando ad entrare a Piazza Navona, insomma corteo determinato ma estremamente colorato e partecipato, alcuni petardi insomma accompagnano anche il passaggio del corteo, insomma. Comunque per ora sono un corteo estremamente positivo, estremente partecipato, quindi, io non so, comunque un'azione, un'azione fatta nei confronti dell'Unipol. Sì, ho capito. E oltre a questo, per quanto riguarda le forze dell'ordine, il clima in generale? Guardate, sulle forze dell'ordine è stato, insomma, hanno scelto di non essere minimamente presenti alla Sapienza al momento della partenza, per cui durante il nostro primo pezzo di corteo non c'è stata presenza di forze dell'ordine, insomma, visto anche quello che è successo la settimana scorsa. Certo. In questo momento, che insomma siamo sempre più in centro, nel centro di Roma, le forze dell'ordine comunque sono appostate un po' in molti angoli e insomma presidiano il territorio in maniera abbastanza massiccia, perché insomma una militarizzazione anche abbastanza visibile in questo momento, insomma. Ho capito, voi state quindi per arrivare in Piazza Navona, quindi il corteo sta per raggiungere la piazza finale? Assolutamente sì. Nel caso ci siano altre azioni, momenti comunicativi, insomma, nel caso ci si sente più tardi, insomma, e vi racconterò un po' che cosa succede. Comunque sì, insomma, il corteo si sta avvicinando a quella che è ufficialmente la propria conclusione, ecco. Bene, Tommy, ti ringrazio e ci risentiamo più tardi. Va benissimo, saluto a tutti. Ciao. Ciao. Noi ora ritorniamo in diretta con un po' di buona musica e lasciandovi in compagnia delle note del nostro DJ Sirio, ci prepariamo a seguire le ultime fasi di questo corteo che appunto sta raggiungendo la sua meta finale ufficiale, poi vedremo come andrà a svilupparsi. Down. Thank you. Rieccoci di nuovo in diretta. Siamo con Alvin, che era alla testa del corteo che ha raggiunto Piazza Navona. Ciao Alvin. Ciao, ciao a tutti. Ok. Sì, dunque, il corteo è appena entrato in Piazza Navona, anzi ormai diciamo la testa proprio del corteo è entrata da mezz'ora, 40 minuti in Piazza Navona, il corteo sta continuando ad arrivare, per ora ancora con la parte, la componente diciamo, più sindacale, insomma quella del patto di base. E a livello di numeri la stima è sempre pressappoco quella che avevo detto prima, cioè tutti dicono 50.000, qualcuno magari più di 50.000, ma siamo su questi numeri. E cose da segnalare, oltre a quelle che avevamo detto prima, ma diciamo c'è stato nel punto classico con la scalinata, in cui chi conosce un po' i cortei romani saprà, si appendono sempre striscioni, come dire, da far vedere poi a chi passa in corteo, oltre che al resto della cittadinanza romana. È stato appeso un enorme striscione della comunità palestinese locale, uno striscione insomma per la Palestina libera contro l'invasione israeliana, e con anche materiale sul boicottaggio dei prodotti israeliani. Sì, certo, ricordiamo questo, che oggi appunto a Londra c'era la prima del ciclo di manifestazioni previste contro il G20, che appunto si articolava proprio sui temi della solidarietà internazionale al popolo di Gaza e alla mancanza di insomma una soluzione politica a seguito dell'invasione israeliana. Esatto, diciamo che anche qui a Roma la comunità palestinese ha voluto dare, come dire, un segno in quella direzione, incassando, è perfino ovvio, insomma non c'è neanche bisogno di dirlo, incassando solidarietà da tutto il corteo, da tutte le persone che passavano. E c'erano anche... Sì, il corteo di oggi, insomma, a questo punto si può iniziare un attimino anche a tirare qualche valutazione, magari anche con qualche nota di colore, nel senso, se riesci a raccontarsi un po' com'è stato l'atmosfera, la gioia o la rabbia, e le parole che hanno attraversato insieme alle migliaia di persone le piazze romane, le piazze e le strade romane. Sì, guarda, ti dico, gioia poca, nel senso che se vogliamo il dato, come dire, positivo era quello dell'aver comunque, anche qui a Roma, vinto la trattativa sul discorso di vieto di manifestare, quindi la possibilità di avere agibilità anche in un corteo che non è tra i famosi 6 previsti dal protocollo, ma tolto questo la manifestazione di gioioso avevo poco, nel senso era la classica, diciamo, manifestazione sul discorso della crisi, in tempi di crisi, che portava proprio rabbia, nel senso rabbia sociale e volontà proprio di cambiare le cose, cioè c'era più questo che non l'elemento della gioia, una manifestazione proprio di protesta a tutto campo e di rivendicazione di una propria soggettività, di identità radicalmente contrapposta a tutto, come dire, il modo in cui il governo italiano, ma poi all'interno delle dinamiche locali e del G14 ovviamente gestisce la crisi nella situazione economica attuale. Ovviamente a livello di slogan molti anche sul discorso del diritto allo di sciopero, di cui finora avevamo parlato poco, nel senso in grossi spettoni di lavoratori dei trasporti con la rivendicazione forte legata al diritto di sciopero. Ecco, in questo momento forse state sentendo, stanno entrando in piazza anche gli studenti, sta arrivando lo spettone della Sapienza, sta entrando in piazza Navona. Sì, sentiamo molto ovviamente con per ragazzi incordonati, è la parte di spettone che dicevamo, se vogliamo, più compatta rispetto al resto del corteo. Altri due striscioni, visto che nel primo collegamento parlavamo anche del discorso beni comuni, sfruttamento del territorio, modello di sviluppo e così via, c'era anche uno striscione del comitato antinucleare, quindi diciamo il tema del no a questo ritorno al nucleare che da sempre più parti viene proposto, e anche uno striscione, un piccolo spettone contro il ponte sullo stretto, diciamo con anche questa parola d'ordine, vogliamo posti di lavoro ma non tramite il ponte sullo stretto. Non in molti, però chiaramente compagni insomma dalla Sicilia e dalla Calabria non era neanche comodo o veloce venire a Roma, sono comunque riusciti a salire in delegazione. Ecco, un primo dato è comunque una partecipazione molto, molto abbondante, molto determinata da tutte le parti d'Italia a questo punto. Sì, sì, da, assolutamente, da, diciamo, da nord al sud, comunque da tutta Italia sono arrivate delegazioni. Ecco, onestamente poi ovviamente potrei sbagliare, ma l'impressione è che non siano arrivate grandi mobilitazioni, tipo treni speciali, treni occupati, centinaia di persone da nessuno, quasi nessuna città. Si è andati per delegazioni di compagni, per delegazioni di insomma, persone molto politicizzate che sono arrivate a, come dire, contribuire a costruire il corteo. Il grosso dei numeri ce l'ha messo Roma. Per fortuna invece Roma ha risposto proprio con la partecipazione anche proprio di popolo, lavoratori, studenti della Sapienza, comunità migranti, insomma, l'impressione è che è stato un corteo in buona parte romano. Quindi mi viene una battuta che insomma 50.000 delegati contro i 6.000 del congresso della nascita del popolo della libertà, di cui abbiamo visto le immagini su tutti i telegiornali nazionali, mi sembra un bel grado di partecipazione. Ecco, adesso insomma, prima di lasciarci così, appunto il corteo è arrivato in piazza Navona, sappiamo che sentivamo anche le voci prima dalla piazza che è in corso un comizio, così ti chiedevo se sai di anche dalle impressioni in piazza a che punto siamo rispetto alla fine del corteo, no? Alla fine di questa mobilitazione. Ma guarda, a meno che non ci siano altre azioni o cose dalla parte dietro del corteo che non sono riuscito a seguire, a cogliere, che potrebbe anche essere, ma diciamo per quanto riguarda tutta la prima parte del corteo, sì, siamo al comizio conclusivo, ormai anche lo settore studentesco e quelli diciamo più sociali, meno sindacali, sono già entrati o stanno finendo di entrare in piazza. Dal palco parleranno precari, lavoratori, disoccupati di vari ambiti sociali, varie provenienze territoriali e ovviamente anche dei diversi sindacati di base, e poi immagino anche altre figure sociali, sicuramente uno studente. Però in questo momento credo insomma che la giornata di mobilitazione stia comunque andando verso il termine, insomma siamo qui in piazza, ci sarà ancora un po' di comizio, ma credo nient'altro di particolare. Quindi ecco, per chiudere, insomma abbiamo già sentito prima dalla voce di Bernocchi che a questo punto si può dare per conclusa la manifestazione di oggi, e quindi possiamo già rilanciare sulle prossime date, che se non mi sbaglio parlavano del 23 aprile. Assolutamente, sì, sicuramente la più importante delle prossime date, poi non l'unica assolutamente, ma la più importante dal punto di vista del patto di base, poi si spera anche non solo dei sindacati di base ma anche di un po' tutta questa alleanza sociale radicale antagonista che era in piazza oggi, è lo sciopero generale del 23 aprile. L'idea è costruire mobilitazioni locali, quindi non più concentrare tutto su Roma ma mobilitazioni locali, riuscendo davvero anche più di altre volte a generalizzare lo sciopero, quindi bloccare i flussi, quindi costruire iniziative sul territorio, quindi portare lo sciopero in quei luoghi di lavoro dove di fatto il diritto di sciopero non è garantito, addirittura non esiste, e quindi cercare di far scioperare anche i precari che appunto o per mancanza di diritto di sciopero o per ricattabilità e rapporto di lavoro sempre più personalistico, paura e così via, tendenzialmente non scioperano, insomma queste sono un po' le grandi scommesse, un po' da costruire insieme verso quella data lì, siamo quasi un mese. Bene Alvin, ti ringrazio per questo ulteriore collegamento, un bilancio comunque molto positivo di questa manifestazione, sia per la partecipazione sia appunto per come si è svolto il corteo, e nel caso ci fossero qualcosa di rilevante ci sentiamo più tardi. Assolutamente, mi faccio sentire se capita qualcosa di particolare. Ti ringrazio, ciao. Ciao. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. E noi dopo questo collegamento dalla piazza, che come abbiamo sentito dal nostro inviato il corteo è praticamente arrivato in piazza Navona, si sta già svolgendo il comizio come al solito prima che la coda del corteo arrivi in piazza, passerà ancora un po' di tempo, però direi che a questo punto possiamo ascoltare un po' di musica e poi, se non ci dovessero essere novità, salutarci. Sì, ecco, magari risentiremo uno degli studenti dell'Onda che abbiamo sentito prima, per avere anche da lui, insomma, dalla coda delle valutazioni finali, conclusive sulla mobilitazione di oggi. E intanto andiamo ad ascoltarci un po' di musica e prepariamo il prossimo collegamento, che sarà, credo, anche l'ultimo. just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to be just what you saw. You're going to read just what. Eccoci, siamo di nuovo in onda, in collegamento con Andrea da Piazza Navona. Ciao Andrea. Ciao a tutte e a tutti. Ok, abbiamo già sentito prima Alvin che ha seguito appunto il corteo per quanto riguarda la testa. Ecco, appunto, Alvin ci raccontava che la coda, diciamo la coda, lo spezzone della Sapienza, dei collettivi universitari, dell'Onda e eccetera, e quanto seguiva, era appena entrato in piazza, e quindi ecco, volevamo sapere, avere anche da te una valutazione generale su questa mobilitazione che comunque, come abbiamo già detto prima, si può dirsi conclusa in un modo in un modo decente, che ha visto una buona partecipazione, molta determinazione, e che quindi rappresenta un passaggio importante della lotta che si sta andando a costruire in questo paese, ecco. Certo, un corteo importante, terreno anche di composizione di forze interessanti quest'oggi in piazza. Come dicevo prima, il corteo dell'Onda parte da Piazza Aldo Moro, viola il divieto di Maroni e di Alemanno, raggiunge la piazza. Nel corso del corteo ci sono state azioni contro le banche per non pagare la crisi, per dire che i soldi li vogliamo per un reddito garantito e non per finanziare le banche, cioè le finanziare le banche, chi ha creato questa crisi e chi dal profitto in questi ultimi decenni ha estratto soldi e soldi in forma privata. Un corteo quindi importante. Davanti al ministero di Brunetta c'è stato un lancio di scarpe, lo stesso gesto di quel giornalista iracheno che ha scagliato quella scarpa contro Bush, lo stesso gesto che è stato ripreso dai movimenti in Francia in questi mesi, scarpe contro Brunetta, scarpe contro questo nano malefico, per affermare che contro la crisi si lotta per un reddito garantito per tutti e per tutte. Quindi ecco, una tematica importante che l'Onda ha portato in piazza in una forma libera, autonoma e indipendente. Oggi nel corteo dell'Onda non c'erano bandiere di partito, non c'è spazio per la rappresentanza, per un movimento che è irrappresentabile e che rilancia in avanti. Prossimo appuntamento, 2 aprile, proprio a Bologna, seminario, tavola rotonda nazionale su come si sta e come si lotta dentro la crisi. Crisi, nuovo welfare e reddito. Sì, ecco, prima nel corso dei nostri aggiornamenti abbiamo visto un po' anche quelli che erano gli appuntamenti europei che ci saranno nei prossimi mesi, in particolare sarà un aprile caldissimo sul fronte delle lotte, e abbiamo citato ad esempio il caso della 2 giorni di controvertice dell'istruzione di Louvain, che è stata lanciata dai coordinamenti spagnoli, francesi e tedeschi. Non so se Neri è al corte, perché insomma l'informazione è iniziata a circolare, però si sta allargando di giorno in giorno, e ecco, anche su questo piano, che molto spesso, trovandoci comunque per fortuna a fare i conti con una lotta, una mobilitazione a livello locale e nazionale qui in Italia sul fronte dell'istruzione e del diritto al sapere, però un altro dato interessante di quest'onda è stata la sua generalizzazione a livello europeo, se non mondiale. Sì, sono molto d'accordo, in particolare negli ultimi 5-6 anni noi stiamo assistendo a straordinarie lotte dentro lo spazio europeo, cioè dentro lo spazio del processo di Bologna e di Lisbona, un processo che investe direttamente il rapporto formazione-lavoro e quindi accesso al sapere, forme di governo della forza lavoro, forme di precarizzazione dell'esistenza. Un ciclo di lotte straordinario, dall'Italia alla Francia, alla Spagna, alla Grecia, alla Finlandia. Il terreno della formazione è un terreno di conflitto europeo, e quindi dobbiamo guardare con attenzione a tutti questi processi che si aprono, processi di ridefinizione degli spazi di conflitto dentro l'ambito europeo. Penso che sia molto importante riuscire a costruire uno spazio di movimento che sia all'altezza della sfida continentale. Questo non è facile, sappiamo che le scommesse organizzative, che i confronti sono sempre posta in palio e mai dati lisci e lineari, però è una scommessa che nei prossimi mesi e nei prossimi anni i movimenti dovranno costruire, l'Europa come territorio del conflitto. Sì, ecco, a proposito di spazi di movimenti, così anche per chiudere con un'altra nota molto più che positiva, appunto c'è il nuovo Bartleby a Bologna. Insomma, andiamo appunto del se sai, ci puoi dire quali saranno anche le prossime tappe del nuovo spazio occupato. Sì, ma l'attività dentro questo spazio è veramente frenetica e quotidiana. Ci sono iniziative tutti i giorni, lo spazio è attraversato pienamente dal movimento dell'onda, così come da musicisti, artisti, da chi prova a costruire arte, sapere e cultura nella città. È uno spazio che, io lo dicevo anche prima nella corrispondenza precedente, ha spiazzato, no? Anche la percezione degli spazi occupati in città. È uno spazio che può dare tanto dentro un dispositivo che vuole rideterminare la fisionomia, la natura degli spazi pubblici in una città come Bologna. Ecco, uno spazio di cui la città ha bisogno, uno spazio che può essere condizione di possibilità in qualche modo per riaprire al terreno dell'autodeterminazione, della condivisione, dell'autodefinizione delle forme di vita e dei comportamenti, contro il cooperativismo e contro la paura. Uno spazio in cui invito tutti e tutte a difendere, perché è uno spazio che fa paura all'università, che fa paura a pezzettini di potere territoriale a Bologna, uno spazio dentro e attraverso cui secondo me passano nuove possibilità di conflitto forte metropolitane in una città importante appunto come Bologna. Quindi siamo sotto sgombero, l'invito a tutti e a tutte a vivere quel posto con tutto il protagonismo che chiunque vuole attraversare, vuole riversare in questo luogo di possibilità. E la battaglia è una battaglia non facile, non scontata, perché occupare un posto in pieno centro a Bologna non è per nulla scontato, ma siamo sicuri che vinceremo, anzi siamo sicuri che stiamo già vincendo. Ricordiamo che sono 16 anni dal 36 occupato che non si occupa un posto in pieno centro a Bologna da parte degli studenti. Sì, anche questo mi pare un dato abbastanza significativo. Allo stesso tempo questa occupazione vive dentro, no? Allo sviluppo delle lotte che hanno attraversato via Zamboni, che hanno attraversato la zona universitaria, che hanno attraversato anche momenti importanti di conflitto e di produzione autonoma di saperi dentro all'università negli ultimi mesi. Quindi questo è un dato di forza, io penso, enorme. Allo stesso tempo anche l'apertura di un cantiere della produzione artistica e culturale penso che sia un bisogno e un desiderio assolutamente strategico dentro allo sviluppo delle soggettività e alle forme di espressione delle singolarità che vivono, attraversano e producono a Bologna, ecco. Certo. Bene, Andrea, ti ringrazio per questo ultimo collegamento dalla piazza. Ci sentiamo prossimamente per le prossime iniziative sia di Bartleby sia dell'Onda. Okay, sì, va sì. Bene, grazie. Okay. Ciao, saluti, ci vediamo a Bologna. Ciao, ciao. Ed eccoci di nuovo in studio, appunto abbiamo sentito con questi ultimi interventi come si sta andando a concludere la manifestazione quest'oggi a Roma. Il corteo ormai penso sarà arrivato tutto in piazza Navona, sono in corso i comizi dei rappresentanti sindacali, dei rappresentanti delle soggettività di base, di settori sociali più vari. Abbiamo sentito prima da Alvin la forte componente dei movimenti di lotta per la casa, ma anche appunto anche dalle parole di Andrea e di Tommy la determinazione e la presenza dell'onda anomala. E quindi ora appunto questa grande giornata di mobilitazione che ha visto, ricordiamolo, secondo le stime insomma degli organizzatori 50.000 persone in piazza quest'oggi a Roma. Sono già state ricordate da Alvin anche comunque anche la difficoltà di mobilitare su scala nazionale in una data come il sabato, che rappresenta tutta una serie di problemi dal punto di vista lavorativo. E quindi sicuramente questa partecipazione possiamo dire che è stata importante e ha riportato in piazza la volontà di affrontare appunto questo periodo non con le lacrime ma con la lotta. Sì, quindi un'ottima manifestazione quella di oggi, partecipata, bella, con un grosso livello di determinazione, per cui direi un'ottima giornata per i movimenti e per i sindacati di base, una scommessa che è stata vinta quella di oggi. Sì, ecco, poi giusto per fare anche un po' la scaletta, abbiamo sentito degli approfondimenti più prettamente economici su quelli che sono sia i dati che le valutazioni sulla crisi che è in atto. Abbiamo sentito Andrea Fumagalli dell'Università di Pavia. Abbiamo aperto una finestra sul G20 che inizia a Londra in questi giorni e che sta già vedendo delle grosse mobilitazioni di protesta. Quest'oggi 100.000 persone in piazza a Londra in solidarietà al popolo di Gaza e per richiedere alla comunità internazionale una soluzione politica al conflitto che si trascina ormai da 60 anni. Abbiamo poi parlato dei fatti di Napoli in cui a seguito di provocazioni fasciste era in corso una giornata antifascista in università e in cui si è verificato l'episodio di insomma la polizia ha sparato. Abbiamo poi visto anche come si già iniziato, come dire, a immaginare come si articoleranno le lotte nei prossimi mesi. Abbiamo sentito delle prossime scadenze importanti. Il 23 aprile sciopero generale generalizzato del patto di base. Il 2 aprile, per quanto riguarda il fronte università, si terrà a Bologna un seminario a carattere nazionale su welfare e nuovo welfare e reddito. Abbiamo ricordato le mobilitazioni di Louvain del 26 e 27 aprile in Francia, promosse dall'onda anomala europea. Quindi insomma un calendario fitto di appuntamenti che Zic nelle sue versioni di Zic.it, giornale online, e di Zic Radio seguirà sicuramente. Con questo vabbè, l'invito è anche quello di venire a trovarci o di contattarci tramite il sito per chi voglia partecipare alla messa in onda, ma anche alla gestione di questo progetto di comunicazione che va in onda da VAG 61. E chiudendo con un'altra nota positiva, insomma, ci tenevo a ricordare che oggi abbiamo raggiunto il record di ascolti, il picco di ascoltatori è salito a 19, mi stanno strozzando. E detto questo, manderei gli ultimi istanti di programmazione musicale e poi magari ci risentiamo a breve per i saluti, ma anche no. Grazie di averci seguito e alla prossima diretta. È sempre un piacere. Ciao ragazzi!